Teatro naturale, io, il Couscous e Albert Camus al Teatro Biblioteca Quarticciolo dal 17 al 19 di febbraio con il Teatro delle Ariette. Ne parliamo con Stefano Pasquini. Stefano, ci sei? Sono qua, buongiorno a tutti. Benvenuto al Radioteatro su Onda Rossa. Bene, sono contento di essere con voi. Bene, allora intanto raccontiamo di questo lavoro e poi ci allarghiamo il discorso chiaramente alle Ariette. Certo. Questo nuovo lavoro, 3 giorni a Roma, uno dei teatri di cintura, che spettacolo è? Beh, naturalmente prosegue nel solco dei nostri spettacoli autobiografici, è una storia vera, è una storia che mi è capitata tanti anni fa, quando avevo 17 anni, e quindi veramente tanti anni fa. È una storia che mi è capitata e in quella storia ho fatto una piccola odissea mediterranea. Andando in Francia, seguendo l'amore, ho scoperto l'amore, ho scoperto il couscous e ho scoperto un pezzo di storia del Mediterraneo e anche Albert Camus e il suo romanzo Lo straniero. E in fondo questo spettacolo è il racconto di questa esperienza, formativa di un giovane che diventa uomo attraverso e mescolando questi elementi che sono poi rimasti gli elementi della mia vita: l'amore, la terra, la cucina, il cibo, le persone e l'arte. Senti, il cibo e la preparazione del cibo sono degli elementi fondanti delle vostre performance. Sì, essendo che noi viviamo in campagna, che dall'89 coltiviamo la terra e non abbiamo mai smesso, ci troviamo tra le mani una serie di materie prime e quindi a un certo punto il nostro teatro, fortemente autobiografico, ha cominciato a portare in scena anche materialmente una parte della nostra autobiografia, quindi verdure, quindi farine, quindi cibi. E poi perché la cucina nella nostra formazione, nella mia in particolare, io da piccolo non sono andato all'asilo, lo dico sempre, ho passato l'infanzia in cucina con mia nonna, che mi sembrava una maga, una strega che trasformava gli animali in carne, le verdure in piatti, le uova, la farina in tagliatelle. Insomma, sono sempre stato affascinato da questo elemento di trasformazione, come dall'elemento rituale e civile dell'incontro attorno a un tavolo, che sia di famiglia, che sia di amici, che sia anche di lavoro, perché no, il tavolo è il luogo della socialità, è il luogo della piazza, sì, è il luogo dell'incontro, e in questo per me assomiglia moltissimo al teatro. Senti, dal punto di vista drammaturgico invece, quali sono stati e quali continuano ad essere i vostri riferimenti? Beh, abbiamo dei grandi amori, come tutti. Camus è uno di questi e per la prima volta lo trattiamo proprio parlandone. Restano molto forti, comunque io li metto molto vicini. Per me Camus e Pasolini sono due intellettuali che in qualche modo si sono assomigliati e si assomigliano, perché sono irregolari, perché non sono stati dentro gli schemi dettati dalle egemonie culturali, hanno sempre parlato con la loro voce, prendendo posizioni e pagando anche le loro posizioni. Camus in più era proprio figlio di povera gente, figlio di un emigrato che è andato a fare il colono dalla Francia in Algeria, morto durante, facendo la carne da macello durante la Prima Guerra Mondiale, e Camus è cresciuto, allevato da sua madre quasi sordomuta e da sua nonna di origine spagnola rigidissima, in un Algeri, nel quartiere di Belcourt, in un Algeri poverissima, e solo un maestro che ha incontrato l'ha tirato fuori da questa miseria, vedendo in lui un grande talento. Questi sono dei numi tutelari che ci portiamo dietro e che, oltre, che si mescolano alle nostre storie molto semplici, alle nostre storie di vita. Ecco, ci racconti anche un po', soprattutto per i più giovani, l'esperienza del Teatro delle Ariette? Ma certo, l'esperienza del Teatro delle Ariette in fondo è una storia che comincia da un abbandono, da un rifiuto del teatro, quando io e Paola nell'89 decidiamo di abbandonare la cooperativa Il Baule dei Suoni, che faceva teatro a Bologna, e andiamo a vivere un po' esiliati in questo podere che era di proprietà della mia famiglia sulle colline del Bolognese, e diventiamo coltivatori diretti, facciamo una piccolissima attività di agriturismo. E poi, come tutte le grandi passioni, questa nuova vita in campagna ci fa tornare la voglia di condividere queste esperienze di vita e ricominciamo a fare teatro, ma ricominciamo in un modo diverso, a casa nostra, senza il problema di essere più professionisti, di guadagnare, ma come una vera libertà, una vera passione. Quindi scopriamo un teatro senza palcoscenici, facciamo teatro in casa, nei campi, e poi nel 2000 creiamo questo spettacolo che si chiama Teatro da mangiare, col punto interrogativo, che presentiamo all'Argentina l'altra stagione, in apertura di stagione, e uno spettacolo per pochissimi spettatori dove noi raccontiamo la nostra vita cucinando e servendo un pasto normale, un pranzo in cui facciamo le tagliatelle. E quello spettacolo ha avuto molto successo e ci ha riaperto le porte del professionismo, per cui adesso noi siamo qui, abbiamo la nostra terra e il nostro mestiere è quello di fare il teatro, e da lì abbiamo creato tante esperienze dove l'autobiografia e il cibo si sono quasi sempre mescolate al teatro. Mm-hmm. E ce li siamo portati dietro, sempre lavorando per piccoli gruppi, non ci sono mai capienze molto alte, ci piace l'intimità, ci piace vedere gli spettatori negli occhi, condividere le storie, ci piace quando lo spettacolo finisce non chiudere la porta e andare a casa, andare via ognuno per conto suo, ma restare, parlare, stare insieme, bere un bicchiere di vino, lì dove lo spettacolo è stato fatto, lì dove è tutto successo, quel piccolo scambio di emozioni, di pensieri e di sentimenti che è il teatro. Mm-hmm. Senti, questo teatro di dimensione conviviale quindi ha delle possibilità di crearsi un suo circuito nazionale, a quanto sento? Ma a quanto pare a noi è successo, ma come sempre non si conoscono mai le ricette delle cose che funzionano. È successo così, e dal 2000 abbiamo cominciato a girare l'Italia, dal 2002 abbiamo cominciato a girare l'Europa, anche adesso andiamo spessissimo in Francia, siamo stati in Germania, in Spagna, in Francia, in Portogallo, in Svizzera, e con una cosa che avremmo detto assolutamente antieconomica, non ci avremmo mai pensato che quel piccolo spettacolo potesse aprirci tutta questa strada e portarci a conoscere delle realtà bellissime, meravigliose, perché il bello dell'andare in giro col proprio teatro, con la propria farina, le proprie verdure, i propri piatti e i propri bicchieri, oltre che le proprie storie, ti fa incontrare altre realtà che non avresti conosciuto, bellissime, da Calais a Lechido, a Evora, a Berlino, cioè, e questo è bellissimo quando lo fai attraverso il teatro, perché incontri veramente gli spettatori che ci sono, le strutture che ti organizzano, e in più, facendo spettacoli per piccoli numeri, Teatro da mangiare per esempio per 30 spettatori, restiamo spesso una settimana, 10 giorni, e in questo restare si aprono altre storie. Gli spettatori che vivono l'intimità dei nostri spettacoli spesso ci chiedono: ma cosa fate domani a mezzogiorno? Perché non venite a casa mia a mangiare? Vi faccio vedere questo, vi racconto quello. E quindi il teatro apre anche relazioni umane, scoperte di territori e di paesaggi umani e non solo, meravigliosi, ecco, meravigliosi, anche terribili a volte, però come a Calais, cioè, dove scopri, sì, scopri quello che la TV anche non ti fa vedere delle volte, ma lo scambio è sempre veramente molto ricco, ecco, sì, non sì. È soltanto andare a lavorare all'estero, certo. Sennò saremmo emigranti. A proposito di territori, infatti io ho avuto modo di conoscervi a Monte Sant'Angelo, ad esempio. Ah, guarda, allora hai mangiato i tortellini. Ho mangiato i tortellini, quindi è stata un'esperienza, insomma, vi ho conosciuti lì, insomma. Ah, bene, in un'estate hai mangiato il matrimonio d'inverno. Esatto. Senti, ci vediamo allora a teatro, ricordiamo l'appuntamento al Teatro Biblioteca Quarticciolo dal 17 al 19 febbraio, con il Teatro delle Ariette, lo spettacolo Io, il Couscous e Albert Camus. Allora Stefano, io ti abbraccio, ci vediamo lì. Anch'io vi abbraccio e vi ringrazio molto. Ciao, ciao, ciao. A presto, ciao. Ciao.